30 tonni e 30 naufraghi aggrappati al peschereccio Budafelle si confrontano sul senso della vita e sul valore della pelle. Si confrontano sul senso della vita e sul valore della pelle. I tonni dicono: ma guarda un po', coi pescatori non vorremmo andare, preferiremmo restare a vivere nel mare piuttosto che andare a morire. Gli uomini dicono: ma guarda un po', coi pescatori noi vorremmo andare, ma non ci fanno salire, vogliono lasciarci nel mare a morire. Ma non ci fanno salire, vogliono lasciarci nel mare a morire. Eppure, dice un tonno, in fondo io lo capisco, a vender tonni si fanno i dollari, a prender naufraghi soltanto guai. Eppure, dice un naufrago, se fossero cristiani preferirebbero pescare uomini che pesci dai mari. Preferirebbero pescare uomini che pesci dai mari. Ma purtroppo cristiani non sono, sono semplici pescatori, e a vender tonni si fanno i dollari, a prender naufraghi soltanto guai. E così da due giorni e due notti siamo costretti a galleggiare, aggrappati alle gabbie per tonni, tra le carezze e gli schiaffi del mare. Aggrappati alle gabbie per tonni, tra le carezze e gli schiaffi del mare.